Terzo anello ad alta voce. Lord Jim di Joseph Conrad. Per un po' andò avanti così, e quindi provarono tutti insieme il desiderio di commentare ad alta voce lo scampato pericolo. Ho capito subito che sarebbe affondata, proprio all'ultimo momento. C'è mancato un pelo, per Dio. Lui non disse nulla, ma sentì alzarsi di nuovo il vento che era caduto, una dolce brezza che spirava fresca e costante, mentre il mare aggiungeva il suo mormorio alla loquacità con cui gli uomini reagivano ai momenti di muto terrore. Era affondata. Era affondata, non c'erano dubbi. Nessuno avrebbe potuto evitarlo. Ripeterono più volte le stesse frasi, come se fossero stati incapaci di fermarsi. Non avevano mai dubitato che sarebbe affondata. Le luci erano scomparse. Senza ombra di equivoco, le luci erano scomparse. Non ci si poteva aspettare altro. Doveva affondare. Egli notò che parlavano come se alle spalle non si fossero lasciati altro che una nave vuota. Conclusero che non doveva aver impiegato molto ad andar giù, e ciò parve dar loro un senso di soddisfazione. Si rassicurarono l'un l'altro col dire che non doveva aver impiegato molto. Era piombata giù come un masso. Mentre rimaneva lì a riflettere, tutto sconsolato, udì i suoi compagni cominciare ad insultare qualcuno. «Che cosa ti impediva di saltare, pazzo?» disse una voce rabbiosa, e sentì che il primo motorista lasciava la poppa e avanzava barcollando, quasi con fare minaccioso, verso il più grande idiota mai esistito. Dalla sua posizione a remo il capitano scagliava con la sua voce rauca epiteti offensivi. In mezzo a quel frastuono Jim alzò la testa e percepì il nome «George!», mentre una mano, sbucata dal buio, lo colpiva al petto. «Che cos'hai da dire adesso, stupido?» domandò qualcuno con una specie di virtuoso furore. «Ce l'avevano con me», osservò. Mi insultavano, chiamandomi George!» Si fermò a guardare fisso, cercò di sorridere e proseguì volgendo gli occhi. «Il motorista piccolo mi mette la testa sotto il naso. Accidenti, è quel maledetto primo ufficiale!» «Cosa?» urla il capitano dall'altra estremità della scialuppa. «No!» strilla il primo motorista, e anche lui si fermò a guardarmi in faccia. Improvvisamente il vento aveva abbandonato la barca. Era ricominciato a piovere e il debole, ininterrotto e misterioso suono con cui il mare riceve il temporale saliva da ogni parte nell'oscurità. «Dapprima rimasero così sbalorditi che non riuscirono a parlare», disse, riprendendo la narrazione. «E io che cosa avrei potuto dir loro?» Esitò per un momento e fece uno sforzo per proseguire. «Mi lanciavano ingiurie terribili». La sua voce, abbassata quasi ad un sussurro, ogni tanto esplodeva all'improvviso, indurita da un furore sdegnoso, come se stesse rivelando segreti abominevoli. «Non importa che cosa mi dissero», aggiunse cupamente. «Sentivo l'odio nelle loro voci, e questa era una cosa buona. Non mi perdonavano di essere su quella barca, non potevano sopportarlo, li mandava su tutte le furie». Fece una risatina. «Ma questo mi trattenne da... Guardi, ero seduto a braccia conserta sul bordo». Si appoggiò con cura sull'orlo del tavolo e incrociò le braccia. «Così, vede? Sarebbe bastato sporgersi un po' all'indietro e sarei andato giù, dietro agli altri. Solo sporgersi un po', un niente! Aggrottò la fronte toccandosi la testa con la punta del medio. «Ce l'ho avuta qui per tutto il tempo», disse in tono solenne. «Per tutto il tempo, quell'idea». assunse un'aria indifferente. Direi che sono meno tranquillo adesso di allora. Allora ero pronto a tutto, quelle erano sciocchezze. Ha passato dei bei momenti su quella scialuppa, osservai. Ero pronto, ripeté. Dopo la scomparsa delle luci della nave, su quella barca sarebbe potuto accadere di tutto al mondo, senza che il mondo ne sapesse niente. Io lo sentivo e ne ero soddisfatto. Era anche molto buio, eravamo come uomini murati vivi in un sepolcro spazioso. Nessun contatto con l'esterno, nessuno a fare commenti, nulla contava. Per la terza volta durante la nostra conversazione scoppiò in una fragorosa risata, ma non c'era nessuno vicino a noi che potesse ritenerlo semplicemente ubriaco. Nessun timore, nessuna legge, nessun rumore, nessuno sguardo, e neanche il nostro, d'altronde, almeno fino all'alba. E il sorgere del sole lo ritrovò ancora alla prua della barca, proprio come quando era saltato giù. Quale costanza nel rimanere allerta. E per tutta la notte aveva tenuto in mano la barra del timone. Il resto del timone l'avevano fatto cadere in mare mentre cercavano di caricarlo sulla scialuppa, e suppongo che un calcio avesse mandato la barra a prua durante quei loro frenetici tentativi su e giù dalla barca, quando cercavano di fare tutto quell'enorme numero di cose per allontanarsi dal fianco della nave. Era un pezzo lungo e pesante di legno duro, e a quanto pare lo strinse per circa 6 ore. Questo significa essere allerta. Ve lo immaginate in piedi e in silenzio per metà della notte, con il viso rivolto alle raffiche di pioggia, impegnato a scrutare forme scure, attento a vaghi movimenti, teso a cogliere i rari sussurri che provenivano dalla poppa? Fermo coraggio o disperata paura? Voi che ne pensate? Certamente un'innegabile capacità di resistenza. Circa 6 ore sulla difensiva, 6 ore di vigile immobilità, mentre la scialuppa andava lentamente alla deriva o galleggiava immobile a seconda del capriccio del vento, mentre il mare, ormai calmo, finalmente dormiva, mentre le nuvole gli passavano sopra la testa, mentre l'immensità nera e opaca del cielo digradava in una volta scura e lucida, scintillava di uno splendore più intenso, sbiadiva ad est, impallidiva lo zenith. Mentre le nere sagome che a poppa coprivano la vista delle stelle più basse assumevano forma e rilievo, diventavano spalle, teste, facce, fattezze, e lui si ritrovava di fronte a sguardi tetri, capelli scarmigliati, vestiti laceri, pupille arrossate socchiuse al biancore dell'alba. Sembravano uomini che per una settimana avessero girato ubriachi per le fogne della città. Sedevano a poppa spalla a spalla con il capitano in mezzo come 3 sordi di gufi e mi fissavano. Pronunciò questa frase con un'intenzione d'odio che instillava in quelle banali parole i succhi corrosivi della virtù, come una goccia di potente veleno trasforma un bicchiere d'acqua. Ma i miei pensieri si soffermavano su quell'alba. Immaginavo, sotto il vuoto trasparente del cielo, quei 4 uomini imprigionati nella solitudine del mare, mentre il sole solitario, incurante di quel briciolo di vita, saliva la chiara curva del cielo come per guardare ardentemente, da ancora più in alto, il proprio splendore riflesso sull'oceano immobile. «Mi chiamarono da poppa», disse Jim, «come se fossimo stati vecchi amici. Li sentii. Mi pregavano di avere un po' di buon senso e di mettere giù quel dannato pezzo di legno. Perché volevo andare avanti con quella storia? Loro non mi avevano fatto alcun male, no, non c'era stato alcun male, alcun male!» Divenne rosso in faccia come se non potesse liberarsi dell'aria nei polmoni. «Alcun male!» esclamò. Lascio a lei giudicare, lei ha capito, vero? Ha visto, no? Alcun male, buon Dio. Cos'altro avrebbero potuto fare? Oh sì, lo so benissimo. Sono saltato giù, certamente. Sono saltato giù. Gliel'ho detto che sono saltato giù. Ma le dico anche che erano insopportabili per chiunque. Era opera loro. Come se mi avessero tirato su loro con una gaffa. Capisce? Deve capire. Su, parli, dica la sua opinione. I suoi occhi inquieti si erano incollati ai miei. Mi interrogavano. Mi pregavano, mi sfidavano, mi supplicavano. Io non riuscii a trattenermi e mormorai. È stata per lei una prova molto dura. Più di quanto sia giusto, aggiunse lui immediatamente. E ora erano tutti gentili. Ah, così schifosamente gentili. Vecchi amici, compagni, tutti nella stessa barca. Cavarsela il meglio possibile. Non avevano nulla contro di lui. Non gli importava un accidente di George. Per qualche motivo George era tornato alla sua cuccetta all'ultimo momento e non aveva fatto più in tempo. Era notoriamente un po' tonto. La cosa era molto triste, naturalmente. I loro occhi mi guardavano, le loro labbra si muovevano. Dall'altra estremità della scialuppa scuotevano la testa. Tutti e tre facevano segno. A me. Perché no? Non ero saltato anch'io? Non dissi niente. Non ci sono parole per le cose che volevo dire. Se allora avessi aperto bocca sarei stato capace solo di ululare. Mi chiedevo quando mi sarei scosso. Alzando la voce mi sollecitarono ad andare a poppa ad ascoltare tranquillamente ciò che aveva da dirmi il capitano. Saremmo certamente stati raccolti prima di sera. Eravamo proprio sulla rotta di tutto il traffico del canale di Suez. Si vedeva fumo a nord-ovest. Provai un terribile tuffo al cuore nel vedere quella riga sottile, sottile, quell'impercettibile traccia di foschia bruna attraverso la quale si scorgeva la linea fra cielo e mare. Risposi loro forte e chiaro che li sentivo benissimo, anche restando dove mi trovavo. Il capitano cominciò ad imprecare rauco, gracchiando come una cornacchia. Non aveva intenzione di urlare per fare un piacere a me. Ha paura di essere sentito a terra, chiesi. Mi lanciò un'occhiata torva, come se avesse voluto farmi a pezzi. Il primo motorista gli consigliò di non contrariarmi. Gli disse che non ero ancora a posto con la testa. L'altro si tirò su a poppa come una montagna di grasso e parlava. Jim rimase pensoso. E allora chiesi. Che mi importava della storia che avevano deciso di propinare? Esclamò in tono di sfida. Potevano raccontare quello che volevano. Era affar loro. Io sapevo com'era andata. Nulla di ciò che fossero riusciti a far credere alla gente poteva alterare la verità per me. Lo lasciai parlare, discutere. Continuò per parecchio tempo. All'improvviso mi sentii venir meno le gambe. Mi girava la testa ed ero stanco da morire. Feci cadere la barra, girai loro la schiena e mi sedetti sul sedile più a prua. Ne avevo abbastanza. Mi chiesero se avevo capito. Non era la verità pure semplice? Era la verità, per Dio. A modo loro non volsi il capo, li udivo ciarlare fra loro. Non vuole dire niente quell'asino. Oh, capisce benissimo, lasciatelo in pace, si riprenderà. Che cosa può fare? Che cosa potevo fare? Non eravamo tutti sulla stessa barca? Tentai di essere sordo. A nord il fumo era scomparso. C'era calma piatta. Lei penserà che stavo per impazzire, continuò in tono mutato. E si può capire, perché ricorderà che avevo perso il berretto. Per tutto il suo tragitto da est a ovest il sole mi arrivò sul capo scoperto, ma quel giorno non poté farmi un gran male, suppongo. Il sole non poteva farmi ammattire. Col braccio destro allontanò l'idea della pazzia. Ne poteva uccidermi. Di nuovo il suo braccio respinse un'ombra. Ma quello dipendeva da me? Davvero? Chiesi, incredibilmente sorpreso da questa nuova svolta, e lo guardai con la stessa espressione che avrei avuto se egli, dopo una giravolta su se stesso, mi fosse ricomparso davanti con un volto del tutto nuovo. Non mi venne un'insolazione e non crollai morto, continuò. Non mi preoccupai affatto del sole che mi picchiava in testa. Riflettevo con la stessa freddezza che avrei avuto se fossi stato seduto all'ombra. Quell'animale untuoso del capitano sbucò con la testa rapata da sotto la tela e sbarrò i suoi occhi di pesce nel vedermi. «Morirai!» brontolò, ritirandosi come una tartaruga. L'avevo visto, l'avevo udito, non mi interruppe. Proprio allora stavo pensando che non mi sarei mosso. Jim tentò di sondarmi nel pensiero lanciandomi uno sguardo attento mentre passava. «Intende dire che stava meditando di lasciarsi morire?» chiesi con il tono più impenetrabile che potei. Annuì senza fermarsi. «Sì, mentre sedevo lì da solo ero arrivato a questa conclusione», disse. Continuò a camminare fino al termine del suo giro immaginario e quando si voltò per tornare indietro si ficcò le mani a fondo nelle tasche, si fermò proprio davanti alla mia sedia e abbassò gli occhi. «Non ci crede?» domandò con una curiosità inquieta. Sentii l'impulso di dichiarargli solennemente che ero pronto a credere senza riserve a tutto ciò che avesse ritenuto opportuno raccontarmi. Thank you. Tutto intorno era silenzio fin dove l'orecchio giungesse. La nebbia dei suoi sentimenti aleggiava fra noi come mossa dei suoi sforzi, e negli squarci di quel velo immateriale egli di tanto in tanto appariva al mio sguardo indagatore, forma netta e carica di un fascino singolare, come una figura simbolica in un quadro. La fredda aria della notte sembrava gravare sulle mie membra con la pesantezza di una lastra di marmo. «Capisco», mormorai, più che altro per provare a me stesso che ero ancora capace di riscuotermi dal mio stato di torpore. Lavondale ci raccolse poco prima del tramonto, osservò cupamente. Veniva proprio nella nostra direzione. Non facemmo altro che aspettare. Ripresi a parlare dopo una lunga pausa. Raccontarono la loro storia. Ci fu un nuovo oppressivo silenzio. Solo allora capì l'importanza della mia decisione, aggiunse. Lei non disse niente? Sussurrai. Che cosa potevo dire? Chiese lui a voce altrettanto bassa. Lieve collisione, fermata la nave, accertato il danno. Presi provvedimenti per mettere in mare le scialuppe senza creare panico. Mentre la prima veniva calata, la nave affondò durante un fortunale. Affondò come piombo. Cosa potrebbe esserci di più chiaro? Chino la testa. E di più terribile. Mentre mi guardava fisso negli occhi, gli tremavano le labbra. Io ero saltato, no? Chiese smarrito. Era questo che dovevo affrontare, non la storia che raccontarono. Per un istante si strinse le mani e lanciò rapide occhiate a destra e a sinistra. Era come truffare quei morti, balbettò. E non c'era nessun morto, dissi. Naturalmente fui contento, lasciò cadere con noncuranza, con la mente fissa altrove. Che la verità fosse venuta fuori, aggiunse lentamente e sollevò la testa. Sa quale fu il mio pensiero quando sentii la notizia? Ne fui sollevato. Fui sollevato quando seppi che quelle grida... Le avevo detto che avevo sentito delle grida... No, ebbene sì, grida di aiuto. Insieme con le raffiche di pioggia e vento. Forse era la mia immaginazione. E tuttavia non riesco proprio... Che stupido. Gli altri no, in seguito lo chiesi loro. Dissero tutti di no. No, ma io le udii anche dopo. Avrei potuto sapere, ma non mi venne in mente. Ascoltavo e basta, invocazioni debolissime, per giorni e giorni. Poi venne a parlarmi quel piccolo impiegato meticcio. Il Patna, cannoniera francese, rimorchiato felicemente ad Aden, indagine, ufficio marittimo, ostello del marinaio. Le viene assicurato vitto e alloggio. Andai con lui, felice di aver ritrovato il silenzio, quindi non c'erano state urla, immaginazione. Dovevo credergli, non sentii più nulla. Chissà per quanto tempo ancora avrei potuto sopportarle. Stavano anche peggiorando, voglio dire, diventavano sempre più forti. Si fermò pensieroso. E non avevo sentito nulla, ebbene, è andata così. Le luci sparirono, noi non le vedemmo, non c'erano. Se ci fossero state io sarei tornato alla nave a nuoto, sarei andato indietro e mi sarei messo a urlare sotto bordo. Li avrei supplicati di tirarmi su, avrei avuto la mia occasione. Lei ne dubita? Che cosa può sapere di quale sensazioni provassi allora? Che diritto ha di dubitare? Stavo quasi per farlo, capisce? La voce gli si spense. Non c'era il minimo barlume. Protestò con voce lugubre. Non capisce che se ci fosse stato adesso non mi vedrebbe qui. Ma lei mi vede e dubita. Thank you.